4 Mattino. Le voglio dire quello che mi stanno, che sta uscendo in questo momento. Hanno trovato la ragazza. È morta. No! Morta, e Lucio ha confessato. Solo 5 secondi abbiamo trasmesso, solo 5 secondi per capire, e forse sono troppi, ci scrive qualcuno. È la storia di Noemi, è il dramma di queste ore. E pensateci, adesso leggerò sulle pagine tante notizie riguardano questo delitto. È un teledelitto, è un delitto di immagini, è un film, è una fiction, è un'immagine, questo shock della scoperta della colpevolezza del figlio e della confessione. È un'immagine, il figlio che rompe i vetri della Micra, il giovane anonimo minorenne di cui non possiamo fare il nome, giustamente, che rompe i vetri della Micra del padre della sua ragazza. È una immagine Facebook, l'ultimo appello. È tutto un film ed è fatto per essere divorato dalla televisione. Allora, la prima notizia di oggi su questa storia è dalla Stampa. Noemi, l'assassino cambia versione. Lei voleva sterminarmi la famiglia. Il 17enne l'ho ammazzato con un coltello, ma sul corpo ci sono lividi. Il ministro manda gli ispettori in procura per la denuncia inascoltata. Carmine Festa sulla Stampa. E fa da contrappunto a questo la notizia del Corriere della Sera. Ce la racconta Angela Balenzano. Il delitto di Noemi. Orlando indaga sui PM. Un sorriso beffardo e una manalzata in segno di saluto, un atteggiamento sfrontato di fronte ai più 1000 persone radunate fuori alla caserma di Specchia, dove il 17enne, reo confesso dell'omicidio di Noemi, era stato sottoposto a un provvedimento di fermo per omicidio volontario. Ci racconta la Balenzano sul Corriere della Sera. L'assassino ha rischiato di essere linciato alla folla, a fatica è stato fatto salire su un'auto e poi accompagnato in una struttura protetta. Ora è tenuto sotto controllo perché mostra segni di depressione. Sì, era uno squilibrato, aggiungo io. Era stato trattato con dei TSO, dei trattamenti obbligati, quindi. Ed è apparso anche qui un'immagine con quel comportamento sconvolgente, inedito, le pernacchie alla gente che lo contestava. La ricostruzione molto importante di Andrea Pasqualetto, sempre su Corriere, denunce, verifiche e provvedimento in ritardo. Erano solo degli schiaffi, non ci sembrava grave. Libero ha intervistato il comandante dei carabinieri e gli ha chiesto conto di queste denunce. Il brigadiere Giuseppe Borriello racconta che cosa era successo e si difende. E dice: la madre ha fatto tutto il possibile per tutelare la giovane, ma parlare dopo è facile. Certo, lui non era un agnello, ha commesso un omicidio efferato senza provare pentimento. Solo quando ci ha portato davanti alla tomba, pensate, dico io, solo davanti a quella tomba ai sassi, dove aveva nascosto il corpo martoriato di Noemi, l'ho visto barcollare, ma solo per un attimo. Poi è tornato presente, lucido, quasi distaccato. E questo è il racconto di coloro che hanno arrestato il ragazzo, di coloro che erano in quel paese vicino Lecce, in provincia di Lecce, vicino Leuca, e è come una cronaca di una morte annunciata. Era un grido di dolore, era la denuncia di una violenza, ma non è stata ascoltata. Questo è veramente il tratto inquietante, il teleracconto e la profezia che ancora una volta non abbiamo sentito. Bene, cambiamo totalmente argomento e andiamo alla Lega. Direttamente da Bolzano è arrivato un bel musicista. È con piacere che vi presento il grande Checco Zalone. Un bel applauso. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Ciao Calabria. E allora? Ma come Calabria? Ormai la gente, sono anni che ce lo racconti. Insomma, presidente, o facciamo sto cazzo de ponte. Guagliarò, lui. Grazie, grazie. Mi ha interrotto sullo stretto in Milano, ma vada via il chap, va. Non capisco, ma Rob di Andranga. il memorabile Checco Zalone, che era alle prese, lui Terrone emigrato al nord, autoproclamato Terrone, pensate, poi proprio dalla Puglia, alle prese con il padre della sua fidanzata, leghista Doc. E questo partito, il partito più antico della politica italiana, è a rischio vita per un ordine di ingiunzione di pagamento disposto, come sapete, dai giudici, e oggi ci sono i conti bloccati. E sentite anche Renzi. Oggi Salvini si è lamentato perché la Lega deve pagare sulla base di una sentenza dello Stato 48 milioni di euro. E Salvini ha fatto polemica contro di me. Allora io vorrei lanciare una parola di pace a Salvini, vorrei gettare un ramoscello d'ulivo. Io smetterò di dire che la Lega ha truffato l'Italia. In cambio la Lega potrebbe smettere di truffare l'Italia come ha fatto con quei 48 milioni di euro che non la magistratura, ma che loro hanno portato via. Era un provvedimento atteso, ineludibile, conseguenza di una sentenza di primo grado con la quale è stato condannato l'ex leader Umberto Bossi. Ma ieri, come un fulmine a ciel sereno, almeno per la direzione della Lega Nord, ci racconta Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, il Tribunale di Genova ha disposto, su richiesta della Procura, il sequestro preventivo di diversi conti correnti del partito. Matteo Salvini ha convocato in fretta e furia una conferenza stampa alla Camera e ha criticato con veemenza le toghe. È un attacco senza precedenti alla democrazia, un atto unico nella storia della Repubblica, una scheggia della magistratura che ci vuole mettere fuori gioco. Tanti gli approfondimenti su questa storia. E Umberto Bossi, siamo andati in banca ma i soldi erano bloccati, ci aiuteranno i volontari, il capogruppo alla Camera Fedriga, noi non c'entravamo nulla. E poi la storia incredibile di Belzito, sempre sul Corriere della Sera, a pagina 6, Belzito, ve lo ricordate, il tesoriere dei diamanti, la causa di tutto. Sono stupende queste cose quando i giornali vanno a scovare dove finiscono i personaggi. Dal Carroccio al nuovo movimento sociale, ci racconta Erika Della Casa, ora Belzito gestisce un bar. Allora chiudo questo frammento e poi torniamo su tre temi: Grillo senza soldi con la sacca di sangue, la Lega senza soldi con i conti pignorati e le feste dell'Unità senza soldi, un pezzo incredibile sempre al Corriere. Erano la macchina, erano il tesoretto, erano quello che portava risorse, calendari tagliati, stand vuoti, il flop delle feste dell'Unità che mette a rischio le casse dei Dem. Dovremmo forse interrogarci su qualcosa sulla politica in questo paese? Ci fermiamo. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Mattino. Ma se quei due penny in banca... Subito impiegar, tu li sai, senza troppi sforzi in breve raddoppiar, li vedrai. Saranno sicuri. Il più grande apologo sulle banche, Mary Poppins, un classico disneyano, e non solo. Ebbene, le banche sono un punto di svolta oggi sui giornali, oscillano fra le prime le pagine interne con spigolature importanti. La prima: ebbene, si sta decidendo di Visco, non Visco l'ex ministro, ma del governatore. C'è un retroscena, una paginona su Repubblica di Francesco Manacorda. Il governatore potrebbe essere il primo chiamato a deporre sotto esame il ruolo di Banca Italia nella vigilanza delle banche. Visco, stretto fra Renzi e il nodo della conferma, prepara il contrattacco. Scrive Manacorda infatti: se dovesse essere davvero il governatore di Banca Italia il primo convocato davanti alla commissione d'inchiesta sul settore bancario, come ha chiesto parte del PD, Ignazio Visco non rischierà certo di farsi trovare impreparato. in una Banca d'Italia dove si parla per atti più che attraverso dichiarazioni, quegli atti sono stati già raccolti in grande quantità e sono pronti all'utilizzo. Il nodo però di questo retroscena è che si parla dell'ipotesi di una sostituzione e si spiega perché dentro il governo ci sono idee diverse. Ma abbiamo parlato di Visco evocando col pezzo di Manacorda la commissione sulle banche. Alta tensione, titola sempre Repubblica, pagina 6, è una doppia pagina, c'è cioè molta attenzione e molta importanza. Il PD dice non indagate solo Etruria, il Movimento 5 Stelle accusa voi insabbiate, i democratici indicano i loro nomi per l'organismo parlamentare che indagherà sui default. Per la presidenza, ipotesi Casini, pensate, che criticò l'iniziativa della commissione come demagogica. Demagogica, e diventa presidente di quella commissione. Oppure l'altro nome del PD è Zanetti. Quanto piace al Fatto Quotidiano questa ipotesi? Zero. La commissione banche è in mano al Giglio Magico, ma neanche un punto interrogativo. E il, carino anche il titoletto del catenaccio, ma va, Renzi mette i suoi fedelissimi, scrive Marco Palombi, a gestire l'inchiesta parlamentare. Si tratta sul presidente, difficile Casini, forse sarà il verdiniano Zanetti. Ci siamo quasi. Dopo 4 anni e mezzo dalla proposta di istituzione e a 3 mesi dal varo definitivo, la prossima settimana la commissione inchiesta parlamentare sul sistema bancario potrà iniziare a lavorare. Peccato che, anche a leggere i 40 nomi che la comporranno, ci sia da aspettarsi poco o niente. Scrive così Palombi. E dalle banche però andiamo sull'apertura molto importante per quelli che hanno a cuore il paese, i suoi destini. Finalmente le buone notizie, le good news, ce le dà il Sole 24 Ore spiegandoci, il titolo di prima, CSC rialza il prodotto interno lordo a più 1,5%. Boccia, il presidente di Confindustria, contento, dice ora niente errori. Non ci sono tesoretti da distribuire, competitività prioritaria. E che cos'è il CSC, vi sarete chiesti? Il Centro Studi di Confindustria ha rivisto al rialzo le stime del PIL, corretto per quest'anno al più 1,5, era all'1,3 vi ricordo, e all'1,3 per l'anno prossimo rispetto all'1,1. Siamo all'inizio di una inversione di tendenza, ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto attenti. Non ci sono tesoretti, bisogna pensare a come gestire questa crescita. Ovviamente a pagina 3 c'è un ampio rapporto sempre sul Sole 24 Ore su come, dove, schemi, le griglie, tutto quello che bisogna capire, ma è interessante il motivo, da dove si parte. Rossella Bocciarelli ci spiega, la spinta arriva da export e investimenti, e poi, perché non è una messa cantata, sempre lei a fianco la nota negativa, la fuga dei giovani costa 14 miliardi ed è quello che indaga anche Repubblica. C'è molta intesa sui giovani perché sono il nodo dolente. Pensate, il 6% di quelli che si laureano se ne vanno. Passiamo allo Ius Soli. Lo Ius Soli. L'Italia non è un paese razzista. In Italia ci sono molti razzisti. Purtroppo ci sono molti, molti, molti razzisti nella classe politica. I cittadini italiani non sono razzisti. Come i cittadini italiani non vogliono la guerra. Ma i governanti italiani sì. E qua ci sono due aperture da confrontare. Quella di Repubblica, Prodi, un'intervista esclusiva di Paolo Rodari, che prende la posizione in quella guerra civile dentro la maggioranza e vi stiamo raccontando a giorni fra chi vuole gettare la spugna e chi invece vuole fare questa legge. Prodi dice lo stop allo Ius Soli è un calcolo sbagliato fatto solo per seguire i sondaggi. E poi aggiunge, durissimo, intervistato da Paolo Rodari, un errore fermarsi per paura, così gli elettori puniranno la sinistra. È una bomba lo stop al Senato sullo Ius Soli, dettato da cosa? E ecco cosa dice. Credo semplicemente dall'emozione. Ma se obbediamo all'emozione, spiega Prodi, non arriveremo. Che cosa faremo alle elezioni? Un danno maggiore? Io penso che sia una linea assurda la chiusura della cittadinanza. E questo è ovviamente una presa di posizione molto pesante negli equilibri interni. Come sapete, Prodi non ha più un ruolo ma un prestigio nel mondo della sinistra. Bene, volete cambiare il titolo di Libero? Lo Ius Soli esce dalla porta e rientra dalla finestra e poi sparato in prima al governo. Meglio Bingo Bongo. Non si capisce chi è Bingo Bongo, o almeno si capisce, però è un po' inquietante. Altri tre casi di africani affetti da malaria e a Roma la Raggi salva le zanzare, non i malati. Vi dicevo sull'economia, scusate, lo dovevo inanellare prima, ma lo riprendo perché è interessante. Zulin, che è il vice direttore, spiega: il debito aumenta, ma il ministro è contento lo stesso. Nella nota al DEF, che approderà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, ci sarà un miglioramento del deficit e della crescita. E giudico positivo anche l'andamento del debito, sostiene il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan. Positivo, ma si è aumentato di 160 miliardi negli ultimi tre anni nonostante Mario Draghi comprasse i titoli. Ecco, questa era una nota da dare in quelle notizie sull'economia, perché è il contraltare, diciamo così. Allora, Orsoni, vi ricordate chi era? Era il sindaco di Venezia, prima pagina del Corriere della Sera, assolto dopo tre anni, fu arrestato, si dimise e però dice: non festeggio. Al processo Mose è assolto l'ex sindaco di Venezia, che nel 2014 fu arrestato con l'accusa di finanziamento illecito dei partiti. Non mi sento di festeggiare. Condannato invece a 4 anni al Terò Matteoli, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Chi vuole tornare sui forestali con le ultime novità sulla notizia che vi davo ieri, c'è Giordano sulla Verità. E poi ci sono due cose grosse. La Consip, la PM accusa i carabinieri del caso Consip, erano degli esagitati, puntavano a Renzi. Giovanni Bianconi, la prima pagina del Corriere della Sera. E anche Repubblica, a pagina 8, con Del Porto. I carabinieri della PM: noi vogliamo arrivare a Renzi. Però su Repubblica a me sembra interessante che di tutto questo fumo, perché molti, anche i più addetti ai lavori, anche quelli che seguono meglio, non capiscono bene cosa accade su Consip con questa guerra civile, ebbene, è arrivata la prima sentenza. C'è una guerra civile fra le parti, fra i magistrati, fra gli inquirenti, però 20 mesi a Gasparri, l'accusatore di Romeo. Ricordate chi è? L'ex dirigente della Consip ha patteggiato, Gasparri, la corruzione dopo l'ammissione di aver preso mazzette da Romeo, l'imprenditore. E questa è una cosa molto importante anche ai fini processuali, perché questa confessione, come ci racconta Giuseppe Scarpa su Repubblica, mette un punto, cioè una corruzione c'è stata e adesso questo punto giuridico e questa certezza che diventa una sentenza peserà anche sul giudizio che riguarda gli altri imputati. Strade! Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com. Vi presenta "24 mattino". Il grande, il mitico Carlo Genta. C'erano scommesse qui alla radio e dicevano: ma chissà se si sveglia, ha lavorato fino a tardi. E invece lui, lo Stakanov di Radio 24, è qui per informarvi sul calcio. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te Luca, buongiorno a tutti. Però io mi sono svegliato un'ora fa, perché diciamolo pubblicamente, avevamo appuntamento un'ora fa. Ah vabbè, mi hai umiliato. Allora, racconta questa forbice paradossale e schizofrenica che stupisce gli appassionati di calcio. Pippe in Champions, detto alla romana, e eroi nelle coppe minori. Però è una bella notizia, tre italiane che vincono, impresa della Lazio, fuochi d'artificio del Milan. Fai la tua fotografia proprio per immagini, ta ta ta. La prima immagine è Camp Nou, Barcellona, non esattamente lo stadio del Vitesse, quindi sono due cose un pochino diverse. Altra fotografia, Olimpico, dall'altra parte c'è Atletico Madrid, qui con tutto il rispetto gli avversari sono un po' meno forti. Beh, l'Atalanta, come un'avversaria di gran nome, l'Everton, del tanto strombassato calcio inglese, no? Qui abbiamo hanno, bravissimi, hanno rifilato tre schiaffoni. Quindi usciamo dal tunnel o dobbiamo ancora aspettare? No, non siamo nel tunnel perché, tu a Roma, e la Roma, la finale di Champions non la vedete da un po' di anni, ma il calcio italiano ne ha giocate due. Ma non iniziare con apprezzamenti etnico-geografici. Dimmi chi è l'eroe, il nome, la bella storia, Papu Gomes? Papu Gomes, sì, è un grande personaggio, è un bravissimo giocatore, è un ragazzo di una simpatia clamorosa e ha una bella storia da raccontare, compresa l'ultima, cioè ha deciso, aveva tanto mercato, sai bene. È rimasto a Bergamo. Ha deciso di rimanere con quella maglia. Rimanere in provincia, andare controvento, ecco una grande lezione. Grazie Carlo, ti risentiamo presto. Messaggi al 349-238-6666. Presto le telefonate, presto il gattone qui. E però la vostra attenzione nel spigolare, darmi informazioni. Per esempio, uno di voi mi dice: caro Telese, Orsoni è stato prescritto per il reato più grave, cioè finanziamento dei partiti in nero. Non fermarti ai titoli dei giornaloni, la verità è un po' diversa. E allora partiamo con la raffica. Lo sapevate che Mentana andrà a fare un dibattito a Casa Pound? L'avreste mai detto? È veramente il coraggio di Enrico, che avendo un ruolo importante non si sottrae al confronto. Ce lo spiega Libero a pagina 6. Casa Pound invita il direttore del TG da 7. Il giornalista dice sì. E andiamo con la rafficata delle notizie varie. Beh, questa veramente è molto interessante. Lo sapete che sta nascendo un nuovo paese, è nato un nuovo paese, la Vesovia. Sembra una di quelle battute dei film meravigliosi di Spielberg, no? La Cracozia di Determinal. Vieni con me. Io non so volare. Ti insegno io e ti insegno anche a cavalcare i venti. E via che si va. Bastano dei pensieri felici, bastano quelli a sollevarti in aria. Vieni via. Vieni sull'isola che non c'è. Ah, vedi, mi hanno messo l'isola che non c'è. No, la Vesovia è nata per esercitazioni militari, ci informa il Corriere, e però è diventata una moda, mettono i simboli, le bandiere e tutto. E io lo collego con una grande notizia che c'è sulla stampa. Il Kurdistan, invece, è uno stato conquistato con le armi ed è, come dire, stretto a cuscinetto fra grandi potenze, al confine fra la Turchia, e sono i Peshmerga che l'hanno conquistato con le armi. E lo sapevate che in Texas, questa è un'altra notizia curiosa, c'erano dei movimenti indipendentisti in California, e lo sapete chi li finanziava? La Russia! È incredibile! Anche questa è una notizia interessante, in funzione anti-americana. La zanzara, questa non la zanzara di Radio 24, ma quella che tormenta Roma, ed è una, ovviamente una notizia inquietante, un contagio che continua ed è un problema, ed è un grande problema. Su questo scrive un bel corsivo sulla stampa oggi Mattia Feltri, raccontando che il vaccino, la disinfestazione che avrebbe dovuto proteggere Roma da questa terribile zanzara africana che continua a contagiare, questo vaccino fu fermato con clamore, questa disinfestazione fu fermata con grande soddisfazione dalla giunta Raggi, dicendo che era una vittoria. E la zanzara chikungunya dal 2007 tormenta la città e fu combattuta con queste disinfestazioni, ma poi improvvisamente l'assessore Pinuccia Montanari bloccò tutto esultando: la nostra ordinanza, la prima del suo genere, basata sulla prevenzione, sui prodotti biologici e sulla drastica riduzione di sostanze ad alta ed elevata tossicità. Due storie di donne, di quelle che piacciono a me. Sul Corriere della Sera, la Topolansky. Sapete chi è? È la moglie di un leader guerrigliero, che ex guerrigliero ovviamente, che ha governato l'Uruguay, e la Topolansky ha preso il posto del marito, come accade tante volte in Sud America, pagina 16, il Corriere della Sera, e si candida. Lucia, che voleva cambiare il mondo, ora l'ex guerrigliera trascina l'Uruguay. La moglie di Pepe Mujica diventa la nuova presidente. E a questa donna ne affianco un'altra, tutta diversa, che mi è piaciuta, è anche lei la regina di un impero, sempre al Corriere della Sera, in un altro spazio, Lady Citroën, Linda Jackson. Sessismo nel mondo dell'auto. E sapete perché si è incazzata questa donna potentissima? Perché è entrata con il marito in un salone di auto, lei che governa uno dei più grandi gruppi automobilistici d'Europa, e quello dei concessionari si è distrutto la vita. Il concessionario è andato incontro a suo marito e non a lei, e gli ha detto: signore, come vuole spendere i suoi soldi? E lei ha detto: sessisti! Però sulle bollette chiudiamola in bellezza con lo straordinario pezzo di Gramellini. Dopo il calendario giuliano, prima pagina del Corriere della Sera, il caffè di oggi, anche quello gregoriano ha fatto il suo tempo. Ma non essendoci più un Cesare o un Papa Re in grado di imporre la loro volontà, urbi e torbi, per voltare pagina, occorreva un altro potere riconosciuto dagli orbi, le compagnie telefoniche. Animate da un comune afflato, neanche si fossero messe d'accordo per muoversi all'unisono, le quattro principali concorrenti del settore hanno convenuto, racconta Gramellini, di accorciare la durata di ogni mese a 4 settimane. Del resto, le stagioni, mezze o interne che siano, non esistono più, e con la rivoluzione climatica in corso il rispetto degli antichi cieli risultava ridicolo, oltre che, a causa degli anni bisestili, vagamente iettatorio. Limando 2 o 3 giorni a ciascun mese, ne hanno creato un aggiuntivo che verrà santificato con la suggestiva cerimonia della spedizione della bolletta. La 13ª, già odioso privilegio dei lavoratori a posto fisso, scrive Gramellini, assume un nuovo significato di pagamento astronomico, non nel senso di Copernico, ma di contributo ulteriore delle famiglie al PIL sullo stomaco degli azionisti. Colpisce, conclude Gramellini, che un'intuizione tanto brillante sia stata taciuta con modestia dalle compagnie, che hanno preferito comunicarla agli abbonati tramite lettera, le più timide in fondo a qualche mail. Ma il calendario telefonico sta ugualmente conquistando proseliti fra gli altri benefattori di bollette: luce, gas, pay TV. Anche se ieri gli oscurantisti dell'Agicom hanno provato a bloccarne la corsa, il progresso non si ferma. La faccia tosta, speriamo! GR!